Due di denari, il programma che informa con autorevole leggerezza. Che leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto, non avere macigni sul cuore. Due di denari, perché i nostri soldi sono una cosa seria. Di Deborah Rosciani e Mauro Meazza. Ok, tirate fuori un po' di grana per la signorina. Andiamo, tira fuori un verdone. Non do mance. Non dai mance? No, non ci credo. Non credi nelle mance? Sai quanto guadagna una cameriera? Un cazzo di niente. Drin drin, edicola al risparmio. E buongiorno a tutti da Deborah Rosciani e bentrovati a Due di Denari. Abbiamo voluto cominciare con questa clip questa mattina tratta dal film Le Iene di Quentin Tarantino. L'interprete di questa scena era Mr. Pink, interpretato da Steve Buscemi, un personaggio che si rifiuta di dare la mancia e alla fine della scena mette sul piatto un dollaro a malapena. Una bella questione questa negli Stati Uniti, perché sapete che se non si dà la mancia, la tip, potete anche essere rincorsi dal cameriere in questione, perché gran parte del reddito appunto mensile di queste persone che lavorano nei ristoranti, nei locali pubblici, in realtà deriva proprio dalle mance erogate ed elargite appunto dagli avventori, dai clienti e dai consumatori. E allora, perché siamo partiti da qua? Perché volevamo raccontarvi di questa storia, che oggi è anche su qualche quotidiano, noi ce ne siamo accorti ieri, di questa mamma single, Danielle Franzoni, una cameriera fortunata per l'episodio di cui è stata protagonista, ma non tanto fortunata nella vita, perché un passato molto difficile, anche di tossicodipendente, di senza tetto, mamma singola appunto di tre figli già grandicelli e un quarto in arrivo. E beh, insomma, lavora in questo locale ad Alpena nel Michigan, e aveva appena servito una coppia di signori che avevano consumato peraltro un pasto per la modica cifra di $23. Poi alla fine questi signori le hanno rilasciato, pagando il conto appunto, una mancia di ben $2020, una circostanza della quale lei si è resa naturalmente era del tutto incredula. La donna ha subito lasciato il rifugio dei senza tetto che la ospitava provvisoriamente, speriamo, ora ha una casa, vuole di nuovo i figli con sé, quindi questo è stato il primo investimento a cui ha pensato utilizzando questa cifra, che naturalmente è molto poca cosa, ma per chi non ha nulla molto spesso è moltissimo, soprattutto quando deriva da un gesto del tutto inaspettato. Nel 2018 aveva preso praticamente pensate che in molti si sono chiesti perché queste persone avessero lasciato proprio questa cifra, questi $2020, perché è stato il primo gesto di questo anno nuovo 2020, e quindi è partita subito questa sfida che è stata chiamata 2020 Tip Challenge. Allora, quindi una storia molto natalizia, anche se Natale ce lo siamo lasciati alle spalle, che ha ben poco a che fare invece con il clima di acquisti surriscaldati che vedremo in questi giorni. Sarà il primo tema di cui parleremo questa mattina. Peraltro richiameremo anche la vicenda che ha raccontato poco fa nel giornale radio la nostra Raffaella Calandra, e che ha visto invece come protagonista questa signora di Pavia, che addirittura è stata interdetta dall'utilizzo della sua carta di credito, del suo conto corrente, proprio perché malata di shopping compulsivo. Parleremo di saldi questa mattina. Siete pronti a dare il via a questa stagione che è già iniziata ieri in alcune regioni d'Italia? Cosa avete intenzione di comprare? Avete già fatto prima di Natale, quindi non siete interessati a questa fase, che in realtà è una grande tentazione per molti, e poi non è detto che si compri qualcosa di utile per il resto dell'anno, ma in genere magari si approfitta un po' di sconti praticati, che sono anche abbastanza consistenti negli ultimi anni. Vediamo addirittura percentuali che si aggirano tra il 40 e il 50% rispetto ai prezzi pieni dei capi di abbigliamento, perché sono generalmente i grandi protagonisti di questa stagione. Quindi parleremo di questo nella prima parte della nostra trasmissione, dopo il giornale radio del risparmio e le nostre rubrichette consuete. Nella seconda parte della trasmissione invece torneremo a parlare dei trasporti italiani, ovviamente richiameremo un po' la vicenda di Autostrade di questi giorni, ma faremo un punto soprattutto della situazione per la vita dei pendolari. C'è una grande associazione dei consumatori Assoutenti che si occupa tradizionalmente in maniera specifica proprio di questo mondo, e quindi cercheremo di capire nel 2020 che sfide dovranno sostenere i viaggiatori italiani, che sono tanti. Richiameremo anche la vicenda che si è consumata nella seconda metà di dicembre, quando parte dell'A14, appunto nella tratta tra le Marche e l'Abruzzo, è rimasta bloccata per molto tempo, causando molti disagi a molte persone che tentavano di raggiungere le località di origine, circostanza che si verifica sempre in questo periodo dell'anno, e quindi insomma tanti disagi che ancora una volta dobbiamo sopportare e sostenere, non tanto nei periodi appunto di grande transito, ma in realtà ormai abbiamo capito durante tutto l'anno. C'è un grande piano di investimenti che anche Ferrovie dello Stato sembra essere intenzionata appunto a mettere in atto per incrementare il numero dei treni che circolano ogni giorno, perché sapete che in realtà abbiamo questo grande problema anche di ritardi continui che si manifestano. Non c'è mai un treno che arriva puntuale, questo è un tema che di fronte al quale siamo sensibili in molti, per cui faremo un po' un punto della situazione su questi argomenti questa mattina. Ovviamente utilizzando come sempre le vostre, se volete, considerazioni, mandatecele, anzi intanto chiamateci all'800 24 0024 se volete chiacchierare con noi sui temi di oggi, oppure scriveteci al 349 238 6666, potete mandarci dei tradizionali sms, ma anche degli altrettanto tradizionali messaggi su WhatsApp, e avete anche l'opportunità come sempre di inviarci i vostri messaggi vocali. Detto questo, che cosa si fa adesso? Si parte con il giornale radio del risparmio. E adesso, signore e signori, il giornale radio del risparmio. Allora, tre notizie questa mattina, una sulla quale ritorno, ne abbiamo parlato anche ieri a Focus Economia, per chi ha avuto così il desiderio, la voglia, la pazienza di ascoltarci, ma lo richiamo questo tema perché è molto interessante. La casa e gli italiani, lo sapete, è un rapporto strettissimo quello di cui parliamo, e parliamo peraltro di un patrimonio immenso quello che gli italiani posseggono attraverso la casa. Ieri è stato diffuso questo rapporto dell'Agenzia delle Entrate del Ministero dell'Economia, rapporto che si intitola Gli immobili in Italia. Nel nostro paese tre famiglie su quattro vivono in abitazioni di proprietà. Il valore degli immobili nelle loro mani ammonta a supera i 6.000 miliardi, e quindi parliamo di una cifra che è tre volte il debito pubblico. L'indagine, questo ieri lo avevamo rilevato un po' con un nostro esperto come limite, come debolezza di questo rapporto, fa riferimento all'anno 2016. Dal 2016 ad oggi già sono cambiate molte cose nel panorama immobiliare italiano, ma in ogni caso qual era la fotografia scattata in quel momento? Un'abitazione in Italia vale mediamente 162.000 euro, con un valore unitario di 1.385 euro a metro quadrato, con una diminuzione dell'1,8% rispetto all'anno precedente. Cali superiori si attestano però in Lazio, in Liguria e nelle Marche. In Toscana i valori perdono quasi il 3%, mentre per Veneto e Abruzzo la flessione dei prezzi sulle 2015 era stata del 2,5%. Mercato del tutto a parte, rappresentato dalla Lombardia, il cui valore delle case rimane stabile da lungo tempo, se non addirittura in crescita negli ultimi anni. Quindi sarebbe effettivamente molto interessante rapportare questa indagine rispetto alla situazione odierna, e quindi vi invito insomma a leggerlo per chi è appassionato di mattone. È comunque un'indagine molto accurata e molto dettagliata. Un'altra notizia che vi voglio segnalare appare questa mattina sulle pagine di Norme e Tributi del Sole 24 Ore, pagina 21. L'assistenza sociosanitaria ai disabili non è subordinata né alle risorse finanziarie né alla disponibilità di posti presso le strutture semiresidenziali. Lo precisa il Consiglio di Stato con una sentenza fresca, è proprio stata pubblicata ieri, 2 gennaio 2020. Qual era il caso su cui il Consiglio di Stato è stato chiamato a pronunciarsi? Si discuteva dell'incompleto inserimento di un minore, 3 giorni su 5, in un centro diurno, perché la USL non aveva i fondi, almeno sosteneva così, e si era limitata a formare una lista di attesa, erogando un contributo parziale previsto dalla Regione Veneto a sostegno delle disabilità. I giudici però hanno ritenuto di censurare questo comportamento da parte dell'azienda pubblica. L'assenza di risorse avrebbe dovuto essere dimostrata, dice il Consiglio di Stato, come concretamente impeditiva nel singolo caso, all'erogazione delle prestazioni. Più volte, peraltro, segnala proprio Guglielmo Saporito sul Sole 24 Ore, è stato affrontato, quindi non è la prima volta, il conflitto fra esigenze della finanza pubblica e prestazioni richieste. Quindi l'azienda sanitaria in questione è stata censurata perché non poteva negare prestazioni eccependo carenza di risorse. Non bastava dichiarare di aver esaurito i posti in centri diurni perché avrebbe dovuto dimostrare l'inesistenza di fondi di bilancio dai quali attingere anche per una forma di assistenza indiretta presso centri privati mediante rimborso del costo necessario a consentire l'adeguato sostegno socio-educativo. Un'altra notizia, anche questa, fresca, perché questo rapporto è arrivato questa mattina, io ne approfitterò questa sera per esplorarlo nel dettaglio con un ospite a Focus Economia, perché avete la disgrazia di ascoltarmi anche questa sera. Il rapporto COP, la fotografia del 2020 sui consumi degli italiani. Allora, che cosa ci dice sulle nostre abitudini questo rapporto, che pure è estremamente dettagliato e molto accurato? Clima, ambiente e sostenibilità sono le tre parole che per gli italiani caratterizzeranno il 2020 sulla scia dei nuovi valori imposti dai ragazzi della generazione Greta al resto della società italiana. Anche, ma non solo, a questi valori è improntato quel bisogno sempre più pressante di cambiamento espresso dagli italiani al 19% oggi, tanto da scalzare per la prima volta dal top della classifica la mera speranza di un miglioramento, un cambiamento necessario per uscire dallo scenario asfittico e immobile dell'Italia di oggi, stando alla fotografia appunto scattata con il sondaggio di fine anno COP Nomisma e le previsioni 2020 del rapporto COP, ora in versione completa. C'era già stata un'anticipazione appunto in settembre di questa indagine. Che cosa dice di altro questo rapporto? Ci dice che i consumi degli italiani non ripartono e che anche nel 2020 faranno registrare una crescita stimata di circa 0,5 punto percentuale, in un quadro di accelerazione del prodotto interno lordo altrettanto contenuta e comunque troppo modesta per generare impatti sulla vita quotidiana. Un immobilismo che spinge gli italiani ad immaginare di dare un senso diverso alla propria vita dedicando più attenzioni a sé e all'ambiente che li circonda. Chissà se questo rapporto lo avrà ascoltato con attenzione il nostro primo ospite di oggi, lo saluteremo tra poco. Parleremo appunto infatti di saldi e, visto che si parla di consumi che continuano a ristagnare nel nostro paese, di immobilismo degli italiani, chissà se si muoveranno tra i negozi nei prossimi giorni approfittando appunto degli sconti della stagione invernale. Adesso però abbiamo, prima di partire, il nostro consueto punto della situazione, per chi deve lamentarsi ha qualcosa da dire. Dillo a due di denari. Io vi pregherei di parlare un po' della scatola nera, che si eviterebbero tante truffe e tanti incidenti gravi. Vi ringrazio moltissimo e spero che esaudirete questo mio desiderio. Grazie. Allora, lo dico all'ascoltatrice, perché il tema della scatola nera è un grandissimo cavallo di battaglia del nostro Mauro Meazza. La black box è quel dispositivo che teoricamente, una volta inserito nella nostra auto, traccia un po' i nostri movimenti e quindi chiaramente attraverso questo dispositivo è più facile ricostruire le dinamiche di incidenti stradali e di sinistri, e molte compagnie danno la possibilità, una volta installata in auto, appunto di ottenere uno sconto importante in bolletta. Una legge sulla concorrenza aveva disposto una sorta di obbligo di installazione appunto per le compagnie di assicurazione, ma questo obbligo non si è mai concretizzato perché ci sono molti problemi di privacy che vengono sollevati appunto da molti consumatori che non vogliono il dispositivo in auto, quindi continuano a pagare magari un RC auto più alta ma non vogliono far monitorare i propri comportamenti alla guida. E poi c'è tutto un problema anche legato all'eventuale trasferimento del dispositivo da un'auto ad un'altra, se questa si deve cambiare. Insomma, è ancora un meccanismo un po' farraginoso che deve essere migliorato, però se gli ascoltatori ce lo chiedono, visto che l'RC auto è una spesa fissa del bilancio delle famiglie italiane, se si potesse risparmiare ancora un po' tutti sarebbero contenti. Allora, caro Mauro, quando torni sappi che in agenda c'è anche questo argomento. Ottimo, ho ottemperato tutti gli adempimenti della prima parte della trasmissione. Ragazzi, chiedo alla regia, possiamo partire, andiamo a fare un po' di shopping, via! Non è detto che perché sono qui devo per forza comprare. Infatti no. Nel momento topico mi devo domandare: mi serve davvero? Signore, dovete avere il volantino per entrare. Potete entrare anche da questa parte. E vabbè, utilizziamo sempre questo brano di questo film, questa clip tratta da I Love Shopping. Lo sapete che la cinematografia ci fornisce sempre tantissimi spunti per arricchire i nostri programmi, e chissà quanti faranno la corsa al loro negozio preferito, magari avendo rinunciato un po' prima di Natale, negli scorsi mesi, ad acquistare il capo di abbigliamento che volevano. Insomma, si sono detti tanto il 2 gennaio si parte con i saldi, e magari anche risparmiando il 20, il 30 e qualche volta anche un po' di più per cento, riesco a portare a casa il capo che ho desiderato per tante settimane senza far male troppo al portafoglio. Quali aspettative ci sono? Oggi abbiamo interpellato Confesercenti il neo presidente di Fismo, Fabio Tinti, che salutiamo. Buongiorno presidente, buon anno intanto, grazie di essere con noi. Buon anno. Buongiorno. Allora, l'anno nuovo, avete scritto voi nei giorni scorsi, parte con lo sconto come tutti gli anni. Tra ieri e il 4 gennaio prendono il via in tutta Italia i saldi invernali, primo grande appuntamento commerciale del 2020. Le prime regioni a partire, lo abbiamo ricordato anche ieri pomeriggio, sono state Valle d'Aosta, Basilicata e Sicilia. Nel resto d'Italia si parte tra oggi e domani. Allora ci dica subito, presidente, quali sono le vostre previsioni, quanto hanno intenzione di mettere mano al portafoglio le famiglie italiane e anche gli individui italiani, perché poi in genere le vostre rilevazioni si segmentano tra i due ambiti, no? Una famiglia quanto spenderà, un individuo quanto spenderà. Ma guardi, allora, noi per i saldi abbiamo delle importanti aspettative, anche perché diciamo la stagione o l'anno 2019 anche le vendite per natalizie non sono state, diciamo, soddisfacenti, un po' per la situazione meteorologica, un po' per la crisi che attanaglia, come tutti sappiamo, il nostro paese. Dai dati che abbiamo ci risulta che previsionali, naturalmente, al di là che i saldi sono iniziati ieri e domani nelle altre regioni, iniziano domani nelle altre regioni, oltre 4 italiani su 10, insomma, hanno già programmato di approfittare dei saldi, per un budget medio previsto di 168 euro a persona. Questo è un po' i dati previsionali che abbiamo rispetto al sondaggio che abbiamo fatto, poi registreremo, diciamo, tra una quindicina, 15 giorni, poi la rendicontazione degli acquisti. Certo. No, stavo allora, intanto volevo capire se la regia ha bisogno di ripristinare il collegamento telefonico, perché presidente purtroppo non è proprio ottimale. Allora facciamo una cosa, mi prendo 30 secondi durante i quali, come al solito, come si suol dire, si mena il can per l'aia, per consentire a Claudio Balboni in questo momento di recuperare la telefonata con il presidente Tinti, al quale, se ancora in ascolto, chiedo di agganciare il telefono perché adesso lo recuperiamo. Insomma, la spesa media di 168 euro, una spesa media che però Confesercenti dice è fortemente polarizzata, perché il 43% delle persone interpellate per questo sondaggio dice di acquistare per meno di 100 euro, il 47% spenderà fra i 100 e i 300 euro, solo il 6% ha previsto una spesa fra i 300 e i 500 euro, intorno al 4% delle persone spenderà più di 500 euro. Presidente, quanto ci... vediamo un po' se adesso la sento meglio. Sente? Sì, molto meglio, grazie presidente. Perfetto. Grazie mille. No, stavamo pensando ieri anche alla organizzazione concorrente, abbiamo interpellato ieri pomeriggio a Focus Economia e ragionavamo sul fatto di quanto ovviamente negli ultimi anni il mondo dell'e-commerce abbia un po' fatto soffrire l'esercizio commerciale tradizionale, sicuramente anche la stagione del Black Friday, quindi la forte politica di sconti praticati anche se per pochissimi giorni, addirittura un weekend nelle grandi città italiane, comunque poi penalizza il resto della stagione, quindi forse anche per questo poi quando partono i saldi invernali le aspettative oggi devono essere ridotte, perché alla fine, lo sappiamo bene presidente, i saldi sono quasi tutto l'anno. Esatto, e questo è un punto molto dibattuto all'interno della nostra categoria tra i colleghi titolari più che altro di negozi di vicinato, negozi fisici, piccole realtà, cioè combattere contro l'e-commerce, grandi leoni insomma del web, è molto difficile per noi, però contiamo che i saldi, comunque c'è sempre una tendenza da parte del consumatore a rivolgersi ancora al negozio fisico, c'è una fidelizzazione del rapporto tra consumatore e commerciante, c'è un rapporto anche umano, insomma, dove si respira tra chi vende e chi acquista una certa anche confidenza e lealtà. Questo non vuol dire che da altre parti ci siano elementi di lealtà o di scorrettezza, però ecco, noi su questo aspetto, sui saldi, benché quelli invernali specialmente siano troppo, a nostro avviso, ravvicinati alle festività natalizie, troppo, diciamo, sia attaccati alle festività natalizie, però contiamo, insomma, che siano anche un momento, anche una boccata di ossigeno, diciamo, per le nostre economie. In cima ai desideri degli italiani ci sono le scarpe. La spesa prevista dal 47% di chi ha deciso di comprare seguono prodotti di maglieria, poi capispalla, capi di camiceria, magliette intimo, ma c'è anche un 15% in cerca di borsa, un altro 12% di altri accessori, dalle sciarpe alle cinture. Presidente, che cosa ne pensa di questa storia che ha raccontato anche il nostro giornale radio, di queste persone che sono malate di shopping? E c'è questa ragazza, questa signora di Pavia, a cui addirittura è stata privata la possibilità, appunto, è stata privata della libertà di utilizzare la sua carta di credito, il suo conto corrente, perché era malata di shopping compulsivo. Adesso io volevo scherzare con lei, ma insomma questa è una malattia che non hanno molti italiani, a giudicare da quello che ci sta raccontando. No, purtroppo no. No, vabbè, questa è una patologia vera, purtroppo, per fortuna che non ce l'hanno. Esatto, c'è un bellissimo libro del professor Ubaldo Bonicelli consiglierei a tutti di leggerlo, proprio sullo shopping compulsivo. Però vabbè, questa è un'altra, magari ci fossero tanti con questo lieve disturbo, lo dicono, esatto, perché sono cose molto serie, ci mancherebbe altro. Questo sì, però infatti purtroppo non è così. Ora non banalizziamo questi temi, cioè la necessità comunque anche di una regolamentazione più chiara, anche sul tema, come dicevate voi prima, del Black Friday o di altri appuntamenti, perché qui i saldi, se no, sono tutto l'anno. Le pensi che sul Black Friday praticamente non ci sono assolutamente normative che individuano quel giorno come una possibilità anche per i negozi fisici di fare sconti? Paradossalmente saremo tutti sanzionabili in quell'occasione, anche i negozi di vicinato che fanno scontistica nel giorno del Black Friday, per esempio. Ma qua mi pare un panorama veramente molto confuso. Io, Presidente, il primo gennaio mi sono fatta un giro per Milano e devo dire, erano quasi tutti chiusi i negozi, però già le vetrine erano belle addobbate di percentuali, appunto, di sconti in arrivo, per cui esatto, immaginiamo che già molti li avessero praticati per i cosiddetti clienti particolarmente fedeli e ricorrenti. Sappiamo che c'è la metodica dell'SMS con l'avviso dello sconto che può essere praticato già qualche giorno prima dell'avvio ufficiale degli sconti, quindi è un mondo che effettivamente già deregolamentato da tempo. Voi ovviamente a questa situazione non ci state, ma forse per sostenere i consumi, visto che siamo in questa grande difficoltà, non c'è modalità diversa che quantomeno accaparrarsi un cliente tenendolo stretto anche attraverso questi modi, queste modalità? Indubbiamente. Quello che mi preme dire è che, mi consenta questo termine, è un po' avvilente per noi esercenti di piccole attività di negozi come i fisici ricorrere quasi al limite della legalità per riuscire a recuperare quello che è mancato nelle vendite prenatalizie. E anche su questo occorre davvero che ci siano normative, che la politica si faccia carica anche a livello regionale, a livello nazionale, anche di normative anche più severe, perché credo che se nella condizione che ci siano normative, leggi più severe, penso che la quasi totalità, la stragrande maggioranza degli esercenti, dei commercianti, si atterrebbero a quello. E la battaglia, che è una battaglia naturalmente che si perde già in partenza con i grandi colossi, posso fare anche altri nomi, ma insomma tanti non ne conosciamo, sull'e-commerce per noi è difficile, se non si tenta di riuscire a contenere quelle che sono anche le invasioni in termini di comunicazione anche di questi, oppure trovare forme non di abbattimento, ma anche di tassazione che siano certe. Io penso a una web tax, pensiamo a una web tax che sia certa anche per i grandi colossi, e magari sia possono anche limitare, non per questo dare un colpo negativo alla loro economia, perché lì ci sono lavoratori, ci sono imprese, ci sono un sistema, un percorso, insomma, anche economico che vale, come vale del resto anche l'economia, le famiglie, decine di migliaia di aziende, certo, piccole aziende, ma sono quelle di negozi fisici, che vendono attraverso anche questi canali, e devo dire che hanno, certo, avuto anche l'opportunità di farsi conoscere magari al di fuori del proprio periodo, del proprio perimetro, appunto, tradizionale, anche attraverso queste possibilità e-commerce. Un'ultima raccomandazione, Presidente, poi devo salutarla, purtroppo anche per la qualità della telefonata, la prossima volta ci organizzeremo meglio. Allora, intanto un ascoltatore, Massimo da Genova, ci dice: Devo correggerla, cara Deborah. Mi capita spesso, insomma, di correzioni me ne arrivano continuamente, soprattutto quando dopo qualche giorno di vacanza riprendo le trasmissioni, devo essere a quanto pare meno lucida del solito. 20-30% non li considero saldi, sono sconti o promozioni, i saldi sono dal 50% in su. Ci faccia un po' una lezione grammaticale, qual è il gergo giusto da utilizzare in questo frangente, Presidente? No, la promozione è la promozione di uno o più articoli. Si parla di una ditta, di una marca, di un prodotto che magari è un fine serie, quella è un evento promozionale. I saldi vanno, non è una percentuale definita per legge, vanno dal 10% al 70%. Uno può liberamente, c'è una tabella discontistica a piacere della propria attività, insomma, del negoziante, del titolare dell'azienda. Ora poi, se uno crede che il 20% non sia saldo, certo, per me sono saldi, certo, sono sconti, insomma, 20-30%. Presidente, io vivo a Milano, ho dei nipotini nelle Marche, molto spesso a Milano approfitto per comprare loro un sacco di cose. Qualche volta qualche negoziante mi dice però quando si compra sotto i saldi non c'è la possibilità di cambiare la merce che non va bene, così? Assolutamente no, assolutamente no. Ce lo ribadisce, perfetto. Se qualcuno si adopera in questo modo qua, sbaglia. Benissimo. Si cambia la merce comunque sia. Benissimo. Carta di credito, moneta di pagamento elettronica si può utilizzare, anche l'esercente che ci contesta, no, per la merce in saldo non possiamo accettare il pagamento elettronico? Non esiste al mondo, posso rispondere così, e tutte le modalità di pagamento sono ben accette, devono essere accettate. Benissimo. Presidente, altre raccomandazioni da dare ai nostri ascoltatori per affrontare al meglio queste giornate che, insomma, se possibile daranno grandi soddisfazioni a tutti? Comprate nei negozi fisici, state tranquilli, non c'è anche su questo tema che l'esercente aumenta il prezzo e poi lo diminuisce, è una pandonia. Bisogna stare attenti quando conosciamo il nostro esercente, perché siamo clienti fidelizzati, di essere fiduciosi della correttezza professionale delle migliaia di persone che lavorano in questo settore. Infatti devo dire che qualche volta esce fuori anche questo problema, nel senso che magari c'è un paio di scarpe che abbiamo così tenuto sotto osservazione per un lungo periodo, costano 100 euro, andiamo poi a comprarle o con l'intenzione di comprare nella giornata di partenza dei saldi e notiamo che sul cartello c'è scritto che il prezzo iniziale era 120, sconto praticato, che ne so, 20%, e arrivano a 100 euro in quel momento. Quindi questa cosa va assolutamente denunciata, come è in tutto naturalmente nell'interesse delle associazioni di categoria. Grazie al presidente Timti di Fismo Confesercenti per essere stato con noi. Presidente, grazie, buon anno. Buon anno a voi e a tutti gli ascoltatori. Buoni acquisti a tutti e grazie. Adesso ci fermiamo perché vi devo raccontare quello che succede oggi in borsa. Veramente parte già un anno che si preannuncia molto interessante, a giudicare anche oggi dalle prestazioni degli indici continentali. A tra pochissimo. La finanza è poesia. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Rinnova e risparmia da Euronics. Fino al 22 gennaio scegli la tecnologia che conviene. Huawei P Smart 2019 con doppia fotocamera intelligente e design distintivo a 159 euro nei negozi Euronics aderenti e su euronics.it, salvo esaurimento scorte. Gli abbiamo dato tanto, troppo, tutto sì, ma non Credit Reform. Il gruppo Credit Reform, con un fatturato di 550 milioni di euro, è la prima società di informazioni d'Europa ed evade ogni anno più di 16 milioni di informazioni commerciali e 500.000 aggiornamenti gratuiti a 170.000 clienti. Un servizio unico, completo, sicuro. GrefoCert, il certificato rilasciato da Credit Reform, rafforza la tua posizione con clienti e fornitori. 800-425-325 o creditreform.it. Di denari. La situazione relativa al sequestro dei viadotti dell'autostrada A14 fra Pescara Ovest e Porto Sant'Elpidio, che da settimane sta provocando lunghe code e disagi. Un'altra mazzata per gli automobilisti che quotidianamente viaggiano sulla A14 e lungo le arterie ordinarie da Avellino. È arrivato nelle ultime ore il provvedimento della Procura che obbliga i mezzi pesanti superiori a 35 quintali a non transitare nel tratto dell'autostrada in entrambe le direzioni. I biglietti sono arrivati a livelli veramente vergognosi. C'è una situazione situazione ingestibile, 400-500 euro per fare Palermo, Catania, Roma, quindi cifre soltanto per ricchi. È impensabile quello che è accaduto, 120 persone letteralmente abbandonate per strada, è intollerabile. Abbiamo già annunciato una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Già tartassati dal caro voli e svantaggiati dalla carenza di posti su treni e aerei, il viaggio per rientrare in Sicilia per le festività natalizie si è trasformato in un'odissea per 120 passeggeri che avevano scelto i pullman della Flixbus come mezzo di trasporto. E avevamo promesso a cavallo delle festività natalizie che ci saremmo occupati di questo argomento dopo il caos che si è consumato lungo le autostrade della A14, appunto per le code in Abruzzo e Pescara. Ve lo ricorderete, appunto, quello che abbiamo sentito era un collage tratto dai servizi dei principali, appunto, telegiornali di quei giorni e abbiamo voluto tornarci perché ci piaceva ricominciare questo anno. Lo facciamo per la verità da qualche anno a questa parte, parlando anche della situazione di coloro che devono viaggiare molto per ragioni di lavoro, e quindi ogni giorno, ma anche per chi magari in occasione delle festività deve tornare nella città di origine, e capita a moltissimi di noi, me compresa, e non è il caso, appunto, che si trovi a dover essere sempre bloccata, appunto, in autostrada per tutta una serie di problematiche a cui si sono aggiunte anche quelle, appunto, di dicembre a causa del sequestro da parte della procura di Avellino di questi viadotti che hanno provocato tutti questi rallentamenti e dei veri e propri viaggi da incubo, appunto, per molte, molte, molte persone. E allora, che anno sarà per i viaggiatori, i pendolari, le persone che devono spostarsi tutti i giorni? Sono contenti sicuramente che nel 95% della rete autostradale italiana non c'è stato il consueto rincaro dei pedaggi per le ragioni che conosciamo, quindi non è stato un atto di bontà da parte di nessuno, ma una condizione necessaria determinata da tutte le conseguenze dell'avvertenza Atlantia, Autostrade per l'Italia, tra il governo, la famiglia Benetton e tutto ciò che deriva dalla questione del ponte Morandi. In alcune tratte autostradali però gli aumenti ci sono stati, ieri ce l'hanno prontamente segnalati alcuni ascoltatori che peraltro oggi riascolteremo, insomma tante questioni aperte. E peraltro per chi viaggia su rotaia, quindi per chi viaggia per esempio sui treni ogni giorno, si lamenta del fatto che non c'è mai un treno puntuale. E Ferrovie dello Stato, a quanto pare, si sarebbe impegnata, lo ha fatto sapere in occasione della presentazione del piano industriale 2019-2023, avrebbe pronti 6 miliardi di investimento per 600 nuovi treni entro il 2023. Questo sarebbe proprio un impegno a favore dei pendolari. Abbiamo tanti argomenti di cui discutere questa mattina con un amico di Due di Denari, che è soprattutto amico dei viaggiatori, perché l'associazione dei consumatori che rappresenta è particolarmente focalizzata nelle sue iniziative proprio nella tutela delle persone che viaggiano molto, asso utenti. Furio Truzzi, buongiorno e ben trovato a Due di Denari, buon anno. E buon anno a lei e a tutti i nostri, vostri radioascoltatori. Purtroppo non sarà un buon anno dal punto di vista dei trasporti. Ecco, molto bene, cominciamo così. Buongiorno, si vede dal mattino, la notte sarà cupa e tempestosa. Perfetto, ecco. Allora cominciamo un po' con la prima grana che secondo voi come asso utenti dovrete affrontare. Intanto leggo subito un messaggio di un ascoltatore che ci racconta: io sono una pendolare della Lombardia e spero che Trenitalia faccia davvero un forte investimento, perché il problema in Lombardia, dove in moltissimi si spostano dai vari capoluoghi di provincia verso Milano, e la gestione Trenord, quante volte Truzzi abbiamo parlato anche di questa situazione qui da noi. Sono a casa da 2 settimane, ho paura di ricominciare a viaggiare martedì, qui in Lombardia sembra interessare molto di più il trasporto su gomma, nessuno risponde degli incredibili disagi. E devo dire che questa è una lamentela ricorrente che qua in ufficio, in redazione, raccontano anche molti colleghi che ogni giorno arrivano da fuori Milano, perché anche noi viviamo questa stessa condizione. Presidente Truzzi, cominciamo da qui? E cominciamo da qui, perché appunto non sarà un buon anno per i trasporti generalmente intesi. Ecco, non è solo la vicenda incredibile che ogni giorno si legge di questo rosario autostradale e di queste stazioni del dolore e dei problemi che esistono, ma se passiamo sul ferro, in attesa che i piani, che per la verità Ferrovie dello Stato ci ha presentato, Trenitalia ci ha presentato con un programma di investimenti anche ambizioso, però in attesa di questi investimenti la situazione mi pare che stia sfuggendo di controllo. Ecco, non c'è solo il problema della Lombardia, ricordo le questioni del gelicidio, sempre nel nord-ovest, questa, ma anche nel nord-est. Ricordo le difficoltà enormi per i collegamenti Roma-Napoli, ricordo la Puglia, cioè a dire, anche dal punto di vista del ferro siamo ben lontani da quelle performance, cioè stiamo facendo la politica del gambero, anziché fare tre passi avanti ne facciamo tre passi indietro. Quindi questo è un tema che sicuramente deve essere messo in priorità. Cioè, la dico qui, insomma, questa ministro che si vuole dimostrare attiva, apra un carteggio specifico per gli utenti, sia per quelli ferroviari che per quelli autostradali e per quelli anche degli aerei, perché, torno a dire, se ci vogliamo aggiungere un'altra ciliegina, anche sul sistema aeroportuale ci sarebbe molto da dire. Adesso l'attenzione è assoluto, certo. E quindi voli da 500 euro quando ne dovrebbero costare 50, o di servizi costituiti. Infatti abbiamo sentito anche nelle collage dei pezzi che abbiamo realizzato appunto per dare il via alla nostra trasmissione, era un collage che avevamo già realizzato e utilizzato in una trasmissione precedente, ma l'abbiamo riproposta questa mattina per fare il riassunto delle puntate precedenti della situazione appunto della A14. In alcuni servizi appunto si richiamava anche la questione dell'aumento dei costi dei voli per chi da Milano deve ritornare in Sicilia o nelle città appunto del meridione, perché anche quella comincia a diventare appunto una pratica non tanto accettabile, Truzzi, qua se uno ha... Assolutamente, siamo di nuovo appunto in una situazione che dimostra un po' lo sbando, l'assenza di un coordinamento generale, perché è chiaro che una qualsiasi riflessione, un qualsiasi elemento di buonsenso ci dice che c'è questa situazione sulla A14, c'è questo problema sulla rete ferroviaria, ci sono dei problemi, vediamo, coordiniamo e azzeriamo. Non basta tenere bloccate le tariffe autostradali nel 95% dei casi. A questo proposito, proprio qua una lettera che scrissi a Del Rio nel lontano gennaio del 2018, due anni fa, e dove già allora, al di là della segretazione dei documenti contrattuali di autostrade, però con utili al 49% negli ultimi due anni, introiti superiori del 16%, ricavi del 19%, insomma con tutte queste cose, direi che sul sistema autostradale va fatta una riflessione, che non basta tenere bloccati i pedaggi, ma bisogna risarcire, diciamo così, e indennizzare molti di quelli disagiati che ho sentito prima anche nella vostra riassunto, sono veramente alla disperazione. B, intervenire sul territorio, perché che cosa vuol dire con le autostrade chiuse? Che ci sono territori, ci sono i sindaci che hanno le mani nei capelli, perché sono devastati dal traffico dei mezzi pesanti, e C, gli stessi autotrasportatori. Ecco, non penso che sia un piacere passare dal collegamento autostradale alle difficoltà delle vie e delle arterie ordinarie, che spesso sono anch'esse colpite, visto dal maltempo, no? Quindi le infrastrutture deboli. Cioè, è veramente, siamo in guerra, no? C'è una situazione di trasporti che ci dice siamo in guerra, quindi ci vuole un coordinamento forte. Certo. Qualche presidente di regione aveva evocato il genio civile, non faccio pubblicità perché viene dal mio territorio, sì. E bene, io penso che ci voglia anche il coraggio di ammettere che una guerra va combattuta con certi mezzi, e quindi anche i militari, che molte volte sono stati utilizzati per operazioni di ordine pubblico, vengano assolutamente mobilitati per dare una mano a rimettere in moto il sistema infrastrutturale di questo paese. Con tutte le ricadute positive e benefici che ci sarebbero anche in termini economici se partisse un maxi progetto, un maxi piano di investimenti in questo comparto, ovviamente che peraltro è una grandissima richiesta che fanno gli industriali, gli imprenditori italiani da sempre, che devono avere l'opportunità di trasferire le loro merci sul territorio in maniera più snella. Sono le 11.45, Truzzi, si fermi un attimo, abbiamo Michele da Padova che faccio intervenire tra un po', un ascoltatore che voleva intervenire ieri su questo argomento e noi l'abbiamo trasferito ad oggi, ma essendo venerdì il Mauro Meazza, che mi è ancora in ferie, in realtà è sempre un po' in ferie a tempo parziale perché mi ha lasciato il lessonetto anche per oggi. Non poteva mancare nel primo venerdì dell'anno il primo sonetto dell'anno. Ad ogni volger d'anno v'è l'usanza di inventariare le virtù e di vizi per far proponimenti in abbondanza di diete, di palestre e sacrifici. Noi certo non abbiamo tanta importanza, Deborah ed io, che qui siamo due tizi presenti anche nei giorni di vacanza per raccontar di soldi e non di sfizi. Ma vi chiediamo, anche nell'anno 20, restate ad ascoltare con fermezza, non fate l'exit che farà il britannico. Due di denari vi farà contenti con questa sua autorevole leggerezza che è sempre in onda, pure dopo il traffico. Due di denari. Assolutenti per discutere della dura vita dei pendolari italiani. E allora la questione delle autostrade, con il decreto mille proroghe appunto il governo ha disposto la questione della revoca della concessione ad Autostrade per l'Italia e poi la questione anche del blocco dell'aumento dei pedaggi, che era la grande tradizione di inizio anno, che quest'anno per fortuna ci viene risparmiata, ma in ogni caso c'è qualche tratta sul territorio italiano in cui invece questi rincari arrivano e ce lo segnala, ma per la verità lo sapevamo perché ne abbiamo scritto anche noi sul Sole 24 Ore, appunto ce lo segnala Michele da Padova, che invece ha rilevato che cosa. Michele, intanto grazie per aver chiamato ieri e aver avuto la pazienza di aspettare fino ad oggi, eccoci. Grazie a lei, buongiorno e buon anno. Allora, la tratta Padova-Mestre ad esempio è aumentata del 7% e la tratta Padova-Est, Padova-Ovest del 12,5%, aumenti assolutamente inqualificabili e ingiusti. Tenga conto che un pendolare che oggi lavora da Padova a Mestre si troverà a pagare 144 euro al mese solamente di autostrada. Allora, se i salari oggi, come sappiamo, che non sono così ben pagati, voglio dire, che arrivano a malapena a 1000 euro al mese, uno si trova a pagare il 15% del suo salario per l'autostrada. Grazie. In una regione che ha un residuo fiscale di 15 miliardi e abbiamo anche le autostrade più care d'Italia già oggi e siamo gli unici o tra i pochi ad aver subito anche degli aumenti. Allora penso sempre di più che questo Veneto non faccia parte dell'Italia, quando si tratta di pagare devono sempre pagare i veneti. Non evochi pure lei di nuovo la secessione, perché sa che quanto è, ma ogni tanto ritorna prepotentemente la ribalta della cronaca. Allora effettivamente gli aumenti tariffari non sono scattati nel 95% della rete autostradale italiana, ma sono scattati per la società CAV, la concessione autostradali venete, più 1,20%. Io ho queste percentuali. Michele si lamenta che invece nella tratta che lui percorre sono molto più alti i rincari. Autovia Padana più 4,88, la Brebemi più 3,79, Pedemontana Lombarda più 0,80. Truzzi. E non ci siamo, nel senso che l'unica cosa che smentisco dell'ascoltatore veneto è che le autostrade più care d'Italia è quella della Riviera dei Fiori, giuro, perché ci ho fatto uno studio sopra, ma è un triste primato che lascerei volentieri al Veneto. Detto ciò, non ci siamo, perché la moratoria doveva essere generale, ecco, non ha senso mantenere queste tratte, soprattutto in tema di revisione delle concessioni. Ora, sappiamo benissimo che il 99,9% degli italiani è per la revoca delle concessioni autostradali. Se si facesse un referendum domani mattina, sì, sono sicuro di questa percentuale. Il problema è però risolvere anche il problema in termini brevi, a dare questa incarica, esatto, a qualcun altro. Esatto, sappiamo l'ANAS, tutti i paletti che ha posto, soprattutto vuole lo scudo penale sul pregresso. Il problema, al di là degli scudi penali, il problema è che non abbiamo, purtroppo, e qui va detto, un sistema in grado di agire in maniera rapida nella direzione indicata dal comune sentire. Ma in ogni caso la Corte dei Conti ha sollevato anche, con una relazione di 132 pagine, che mi sono letto pagina per pagina, temi molto importanti. Certo che lei ha delle passioni un po'. Raggiungo la perversione in certi momenti, difatti mia moglie mi guarda un po' stupita. Per fortuna invece che ci sono persone come lei. E quindi cosa dice questo studio? Piccole, no? E questo studio si conclude con delle raccomandazioni, dei criteri che, se fossero però attuati da ieri, perché la relazione è la prima di Natale, intanto ci cominciano un po' a mettere in sicurezza, perché significa accelerare le procedure di gara, perché siamo comunque in scadenza, quindi in realtà non c'è solo il problema della revoca, ma del rinnovo della concessione. E quindi è un gatto che si mangia la coda, tanto più con la vigilanza europea che ci dice che siamo fuori dalle norme europee per quanto attiene le tipologie di gare nel settore autostradale. Quindi è veramente una, siamo in guerra, c'è una tempesta perfetta sul sistema autostradale da cui dobbiamo uscire rapidamente e con grande decisione. Io questo non capisco perché non possa diventare un argomento bipartisan di tutte le forze politiche, perché l'ascoltatore prima parlava del Veneto, mi risulta che in Veneto il governatore sia uno dei più potenti esponenti del partito di Salvini, e perché il partito di Salvini insieme al governo non trova un'intesa su questo fatto. Ecco, non penso che agli amici della Lega come agli amici 5 Stelle o del PD siano come dire, su fronti contrapposti nel tutelare gli utenti e il nostro sistema autostradale. Quindi veramente un appello che faccio anche è che ci vuole più unità e coesione delle forze politiche, perché questo è un tema che lascia il nostro paese indietro di anni luce. Ecco, se noi facessimo una fotografia, altro che paesi del Medio Orientale, certo. Per quanto attiene. Noi generalmente a Due di Denari lasciamo un po' fuori la questione politica e ci occupiamo dei... No, ma era una precisazione che facevo, perché diciamo che stamattina, alla luce anche della grande emergenza sulle strade e non solo, che abbiamo quasi quotidianamente, ci sembra magari che potrebbe essere fatto necessariamente anche un e diramato anche un messaggio di questo tipo anche da una trasmissione che generalmente non ama dare questa connotazione, ma l'abbiamo raccolta assolutamente volentieri. Truzzi, allora intanto vabbè, un ascoltatore, l'autostrada più cara è la Bretella Lucca Viareggio, 3,40 euro e senza corsia di emergenza, ci scrive un ascoltatore. E il tema dominante, comunque, lo dicevamo, l'abbiamo detto in lungo e in largo, è quello delle infrastrutture. Perché vi piace tanto il modello Bologna, Truzzi? A me piace tanto il modello Bologna, soprattutto quando parliamo di lavori nel ferro e nell'alta velocità, perché Bologna è quella situazione più evidente a tutti i passeggeri, per cui a due piani sotto c'è l'alta velocità, a due piani sopra c'è il traffico ordinario, non si intralciano tra di loro, tutte e due arrivano nel cosa che a Milano città, invece succede, no? Ricorrentemente, esatto, non c'è un treno che parte Firenze, puntuale. Firenze è una roba incredibile, no? Per non parlare di Roma, eccetera, no? Quindi abbiamo la necessità che il modello Build Bologna si diffonda rapidamente, e se appunto ci sono soldi per infrastrutture, perché qui l'Europa veramente mette a disposizione grandi risorse anche per trasformare, per sostenere la mobilità cosiddetta sostenibile, mi scuso per il bisticcio, per cui avere dei piani che ci portino l'alta velocità come è quasi dappertutto oggi nel centro città, ma che non interferisca con il traffico ordinario e pendolare, anche se su questo poi faccio una precisazione, è fondamentale per il paese. Ecco, quindi è per questo che il modello Bologna è un modello perfetto di alta velocità che dovrebbe essere di guida, un po' devo dire anche come Porta Susa Torino, ecco, che sono gli esempi più evidenti di questo tipo di modalità di trasporto. Ciò detto, i pendolari hanno però diritto. Allora, il sistema paese, il governo spende oltre 200 milioni di euro ogni anno per sostenere gli intercity, che sono ormai diventati i treni peggiori che abbiamo in servizio, di cui buona parte peraltro è asservita alle regioni. Oltre il 60% degli intercity sono ormai dedicati alla media percorrenza e suppliscono al traffico regionale, e quindi il governo stabilisca una partita di giro e intervenga invece con la sussidiarietà sui treni ad alta velocità per garantire tariffe migliori ai pendolari che già usano questo mezzo, ma lo fanno alle tariffe dette, esatto. E soprattutto convinca anche i competitori che l'abbonamento vale per tutti. Ecco, poi il tema dei competitori è interessante, perché qua di competizione nel settore purtroppo ce n'è ben poca. Truzzi, senta, prima di salutarci, abbiamo ancora un paio di minuti di tempo, io invece ne approfitto per salutare la collega Piera Ceci che sta ascoltando la nostra trasmissione e ci ricorda, visto che siamo delle marchigiane, che è stata tra le vittime del caos appunto a cavallo di Natale e Capodanno dell'autostrada appunto A14 lungo il tratto tra Fermo e Pescara Ovest, quando c'è stata la questione del sequestro appunto di alcuni guardrail disposto dalla procura di Avellino, che accusava Autostrade per l'Italia di aver installato dei dispositivi di sicurezza non adeguati dopo la tragedia di Acqualunga, che il 28 luglio del 2013 aveva causato 40 vittime, e ancora ci stiamo trascinando quella situazione appunto, e al punto che è successo quello che è successo sotto Natale. Voi, per tutelare quegli automobilisti là, farete qualcosa, Truzzi, e quella situazione lì passa ormai in cavalleria? Un minuto di tempo. Allora, la cavalleria assolutamente no. Nel contempo, gridare alla class action può conquistare qualche titolo di giornale o qualche trasmissione, ma non è molto praticabile. Sì, esatto. Secondo me l'impegno che posso prendere, visto anche che abbiamo una nuova direzione generale al Ministero dello Sviluppo Economico molto sensibile e molto vicino ai consumatori, è agire perché ci aiuti ad aprire un momento di confronto e con il Ministero dei Trasporti, perché anche qui, a questo punto, come dicevo in premessa, non basta tenere bloccate le tariffe, bisogna risarcire, e quindi questo è un pacchetto compensativo che deve essere messo dentro, un po' come è stato per la tragedia del Ponte Morandi, dove Autostrade mette le mani al portafoglio e non fa passare in cavalleria chi ha subito questi disagi. Bene, ma non benissimo. Vediamo un po', chissà l'anno prossimo in questa stessa puntata, Truzzi, di che cosa parleremo, quale punto della situazione ci toccherà fare. Speriamo di parlare. È una scommessa, arrivederci all'anno prossimo. Grazie. Tanti auguri che ne abbiamo di bisogno. Grazie a Furio Truzzi, Assoutenti, per essere stato con noi, e anche per oggi Due di Denari volge al termine, ma ritorniamo lunedì, anche se la Befana torna nella persona della sottoscritta, naturalmente, ma con Mauro Meazza. A tutti buon fine settimana e buono shop.